E buonasera a tutti, e rieccoci di nuovo insieme per la puntata più amata da tutte le rondini e gli altri uccellini. Gente che legge cose. Oggi vogliamo un po' festeggiare l'arrivo della primavera. Primavera che Radio Godzilla ha sempre dentro di sé. Per Radio Godzilla è sempre un'eterna primavera. Ma per voi comuni mortali vogliamo festeggiare questa nuova stagione con uno spin-off, lo spin-off più amato di gente che legge cose, e cioè gente che legge testi di canzoni. E cominciamo molto banalmente con Canzone di Primavera. La primavera è arrivata. Gli uccelli chiamano le puzzole che strisciano, scodinzolando per amore. La primavera è arrivata. Le balene agitano, i vermi agitano, scodinzolando per amore. Cos'è questa cosa di cui canto che ci rende tutti stregati? Cos'è questa cosa che arriva in primavera che ci dà tutto il prurito? Oh, è amore, è amore, è amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore. Spring is here. Birds are calling. Skunks are crawling, wagging their tails for love. Spring is here. Whales are churning. Worms are squirming, wagging their tails for love. What is this thing of which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. E rieccoci di nuovo insieme dopo questa splendida canzone di Charlie Chaplin. E leggiamo un altro testo, un'altra o un altro testo. Febbre di primavera. Un uccellino mi ha detto così. Ha detto, dai, vai, apri gli occhi, il cielo è pieno di farfalle, il cielo è pieno di farfalle. I fiori sugli alberi, mescola le api mellifere. La primavera rende giusta la mia febbre, febbre di primavera. La primavera è finalmente arrivata, febbre di primavera. Il mio cuore batte forte, febbre di primavera. Non ci sono dubbi adesso, l'amore è nell'aria, alzati, esci. La primavera è ovunque. Bene, senti la voglia di viaggiare. Prendi una macchina o sali su un autobus. In ogni città c'è eccitazione da trovare. succedono così tante cose. Non perdere la gioia della primavera. Il mondo è innamorato. Guardati intorno. Febbre di primavera. Viene a tutti. Febbre di primavera. È tempo di divertirsi. Febbre di primavera. Non ci sono dubbi adesso. L'amore è nell'aria. Alzati, esci. La primavera è ovunque. Febbre di primavera. È tempo di febbre primaverile. Febbre di primavera. Guarda quelle febbre salire. Febbre di primavera. Non ci sono dubbi adesso. L'amore è nell'aria. Alzati, esci. La primavera è ovunque. La primavera è ovunque. Febbre di primavera. Spring is everywhere. A little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky is full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybee. Spring makes my fever rise. Spring fever. Get up, get up, spring is everywhere. Well, if you feel that wanderlust, just grab a car, come on, or hop a bus. We're back in every town around. There's excitement to be found. So much is happening. Don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around, yeah. Spring fever comes to everyone. Time for fun. There is no doubt now, love is in the air. Get up, get out, spring is everywhere. Spring fever, spring fever time. Spring fever, watch that fever climb. There is no doubt now, love is in the air. Get up, get out, spring is everywhere. E rieccoci di nuovo insieme. Per chi si fosse collegato solo adesso, sbagliando, vi ricordo che oggi stiamo leggendo testi di canzoni che riguardano la primavera, perché Radio Godzilla vuole festeggiare con voi l'arrivo di questa nuova stagione, con l'augurio che sia una primavera calda. Ecco, arriva il sole. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Ecco che arriva il sole. Io dico che va tutto bene. Piccola cara, è stato un lungo inverno solitario e freddo. Piccola cara, sembrano passati anni dall'ultima volta che è stato qui. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Ecco che arriva il sole. E lo dico che va tutto bene. Piccola cara, i sorrisi tornano sui volti. Piccola cara, sono passati anni dall'ultima volta che è stato qui. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Ecco che arriva il sole. E io dico che va tutto bene, piccola cara. Sento che il ghiaccio si sta sciogliendo lentamente. Piccola cara, sembrano passati anni dall'ultima volta che è stato chiaro. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Ecco che arriva il sole. E io dico che va tutto bene. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Ecco che arriva il sole. E io dico che va tutto bene. Ecco che arriva il sole. Fai, fai, fai. Comes the sun, I say, it's alright. E eccoci qui adesso per i saluti. Dopo questa breve ma intensa puntata di primavera, e vi ricordo che come sempre dovete chiamare, dovete, non potete, ma dovete chiamare lo 06 23 23 23 23 come ogni settimana migliaia di utentu, di ascoltatori fanno per chiedere quello che voi volete che noi leggiamo la settimana successiva. Vi ricordo che Radio Godzilla è sempre qui con voi, anche se solo il mercoledì la potete ascoltare, ma Radio Godzilla è sempre qui con voi, o anche lì con voi, o qui e lì. E non avendo altro da dire, non avendo altre stronzate da aggiungere, e visto che oggi proprio non mi andava di fare questa puntata, vi saluto e vi rimando alla settimana prossima. Un primavellile, anche perché noi siamo primavellili, un primavellile abbraccio a tutti. Voglia di stringersi e poi vino bianco, fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi che imbroglio era, maledetta primavera che resta di un sogno erotico, se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Don't